È pronto il calendario 2026 di Attivamente. Un anno per raccontare la libertà possibile. C'è un modo semplice, concreto e profondamente umano per iniziare il 2026. Guardare la libertà negli occhi, mese dopo mese. È questo il cuore del nuovo calendario 2026, Vita Indipendente, realizzato e autofinanziato da Attivamente. Un progetto che unisce diritti, solidarietà e responsabilità sociale. Non è solo un calendario. È una narrazione visiva, un manifesto quotidiano sulla dignità della persona. 12 mesi, 12 immagini, 12 frammenti di vita reale che parlano di ciò che spesso non si vede. La scelta, la fiducia, la casa, il lavoro, l'amore, lo sport, la cultura, il territorio, la comunità, la tecnologia, i diritti e il futuro. Ogni scatto rappresenta un pezzetto di vita indipendente come possibilità concreta e quotidiana, fatta di gesti, relazioni, desideri e coraggio. Perché acquistarlo? Perché questo calendario non è pensato per qualcuno, è pensato per tutti. Perché la cultura dei diritti non si costruisce solo nei palazzi, ma nelle case, nelle famiglie, nei luoghi di lavoro, nei corridoi delle scuole, sui tavoli delle cucine. Metterlo in casa o regalarlo significa portare con sé e condividere un messaggio chiaro: la libertà non è un privilegio, è un diritto. E merita spazio. Ogni giorno. Formato e sostegno. Formato A3, stampa di alta qualità. Offerta minima, 10 euro. Una parte del ricavato sarà destinata a sostenere Brian Toccacieli, giovane sammarinese che, dopo l'incidente, continua a dimostrare che la libertà trova sempre nuove strade. Attraverso lo sport adattato, la tecnologia e la forza di rialzarsi ogni giorno.